chiaro la prevista del sacresta d'angelante fu la preda. Nel fuggir per le repente la corona, lo stemma e la tavola resa da sospetto ha sortito l'effetto.